Investire informati. Nostra diretta dal Salone del Risparmio di Milano, ci scusiamo per questo inconveniente tecnico che ci è piombato addosso, problemi di connessione internet e di corrente elettrica che si sono accumulati, però noi riprendiamo il tema che avevamo lanciato, lo faremo appunto con questo collegamento telefonico, speriamo appunto di ugualmente accontentare i nostri ascoltatori, soprattutto di fornire loro tutte le informazioni che avremmo voluto dare, diciamo, in condizioni regolari. Allora, come avete avuto modo appunto di ascoltare all'inizio, parleremo degli italiani e cercheremo di capire se conoscono il loro io futuro. Certo che questa è davvero una bellissima domanda, c'è chi vive da cicale, chi da formica, cioè c'è chi vive di solo sacrificio pensando di accumulare, pensando solo ad accumulare, nella convinzione che la vita sia solo magari una sequenza di momenti difficili, di carestia, chiaramente stiamo estremizzando. C'è chi invece vive anche come se non ci fosse un domani, senza pensare alle necessità e al tenore di vita che è necessario mantenere nel corso della vecchiaia, vivendo alla giornata senza contemplare ciò che potrà succedere più avanti. Diciamo che attorno a queste due situazioni limite certamente abbiamo invece la situazione di milioni di italiani che invece cercano, per quanto possibile oggi con tutte le preoccupazioni che abbiamo, di vivere serenamente l'oggi, ma anche di lanciare uno sguardo un po' più avanti nel tempo, e chissà come si vedono. Ne parleremo poi anche con Nicoletta più avanti, magari poi la stuzzimo un po' su come si vede lei fra 10, 15, 20 anni, ma io la stessa domanda la voglio rivolgere anche a voi, rispondeteci all'800240024, provate ad immaginarvi fra 10, 15, 20 anni dal punto di vista dei denari, lavoro, casa, risparmio accumulato, impegni economici, anche se vi sembra difficile, sforzatevi, condividete con noi l'identikit del vostro io futuro. Noi in questa mezz'ora ci cimenteremo proprio in questa visualizzazione. Lo facciamo perché proprio qui al Salone del Risparmio UBI Pro America SGR ha presentato una ricerca che si chiama Gli italiani conoscono il loro io futuro, con un'indagine su quelli che possiamo definire limiti oggettivi che ognuno di noi ha nel vedersi proiettati nel futuro. Ben ritrovata ad Andrea Pennacchi, amministratore delegato e direttore generale di UBI Pro America, a cui chiedo subito di raccontarci che cosa è stato scoperto con questa indagine e perché gli italiani mediamente hanno questa fatica nel quantificare i bisogni del domani. Passo ad Andrea Pennacchi il telefono, perché fino a quando non riusciamo a ripristinare una normale condizione di messa in onda gli ascoltatori oggi, così li accontentiamo in questo modo. Buongiorno, intanto buongiorno a tutti. Allora, tutti sappiamo che guardare al futuro è necessario, ma non facile. Tuttavia è molto importante farlo, perché guardare al futuro vuol dire saper mettere a fuoco i propri progetti e soprattutto saper pianificare per tempo per realizzarli. Infatti questo è il motivo per cui abbiamo voluto realizzare questa analisi, l'abbiamo presentata ieri al Salone del Risparmio e oggi qui con voi, e questa analisi conferma la propensione naturale degli italiani a guardare al futuro. 9 intervistati su 10 del nostro campione pensa al futuro, e tra l'altro lo fa anche in modo positivo, ma 7 su 10 ci hanno anche dichiarato che pensare al futuro è importante ma molto difficile. È difficile per due motivi. Il primo motivo è che si fa fatica a guardare lontano. 6 su 10 non vanno oltre 10 anni. Tenete presente che oggi l'aspettativa di vita è di 82 anni. Il campione analizzato, che è un campione della popolazione italiana, era tra i 30 e i 65 anni, quindi in realtà 20 anni dovrebbe essere il periodo temporale minimo quando si guarda molto in là. E il secondo motivo per cui è difficile guardare al futuro è che si fa molta fatica a quantificare. Noi abbiamo proprio rilevato, magari lo vedremo poi meglio, che c'è questa difficoltà oggettiva che è insita nella natura umana. Noi facciamo fatica a fare pianificazione a lungo periodo. Pensate che una persona su due ha dichiarato di non saper quantificare i propri progetti, e tra l'altro coloro che hanno detto che sapevano farlo, quindi l'altra persona su due, abbiamo verificato che sottostima fortemente soprattutto l'importanza e l'impatto dei progetti di lungo periodo. Riprendo il telefono per continuare questa conversazione. Allora, molta difficoltà nella visualizzazione del proprio io futuro, molta difficoltà nel quantificare quelle che potrebbero essere le necessità economiche del domani, ma la cosa altrettanto importante è che una volta messi di fronte a queste evidenze, per molti emerge appunto la non sostenibilità futura dei loro progetti secondo i piani di accumulo che sono in corso, ma c'è questa grande anche disponibilità poi ad un certo punto a rivedere la propria pianificazione finanziaria. Quindi messi di fronte a queste condizioni possibili del futuro, la presa di coscienza viene immediatamente, dottor Cannacchia. Assolutamente sì, assolutamente sì. La ricerca mostra con chiarezza che, riflettendo sui temi della progettualità futura, le persone cambiano il loro atteggiamento. Allora, ripasso... riprendiamo come regolarità della messa in onda. Rincuffiamo Andrea Pennacchia al quale chiediamo appunto di riprendere un po' questo concetto. A proposito di futuro proprio, esatto. Prossimo, lei stamattina avrebbe mai pensato quando si è alzato di venire qui e fare questo gioco di cuffie di cellulari? No, ma... vede, il futuro, la vita è sempre allora, sorprendente. C'era Abramo Lincoln che diceva che il futuro è bello perché si vive giorno per giorno, quindi in realtà oggi abbiamo vissuto un chissà bel giorno. Chissà che conversazioni che faceva con Kettering, no? Ecco, infatti. Del quale poi ricorderemo la frase che a noi è molto cara, la ricordo subito: tutti noi dovremmo occuparci del futuro perché è lì che passeremo il resto della nostra vita, esatto, lo sa che ormai esatto. Io l'ho sposata completamente questa frase. No, stavo dicendo che chiaramente emerge il fatto che gli italiani, riflettendo sui temi del futuro, quindi impegnandosi a ragionare sui temi del futuro, fanno emergere una grande volontà di affrontare questi temi. Pensate che l'87%, dopo aver fatto delle simulazioni di quantificazione di progetti futuri, realizza che potrà, se non cambia il proprio atteggiamento, realizzarli solo in parte. E quindi quasi 7 persone su 10 ritiene importante e urgente cominciare subito a lavorare, e uno su 2 è pronto a farlo già da domani. Certo. Tra l'altro abbiamo anche rilevato questo dato molto importante, che il 60% ci ha dichiarato che sarebbe pronto a raddoppiare il proprio risparmio. Certo. In altri termini, il DNA degli italiani si conferma ancora una volta quello di un popolo di risparmiatori, attenti alla famiglia, attenti alle progettualità future. E ce lo stanno segnalando anche molti ascoltatori, per la verità, al 349-238-6666. Però, dottor Pennacchia, questo ragionamento che abbiamo fatto fino a questo momento può sembrare, come dire, prevalentemente di carattere teorico, ma lei ci darebbe un esempio concreto su come si fa a quantificare un progetto di vita e a quantificare una nostra esigenza del futuro? Perché è chiaro che tutti noi ci vediamo, anche se un po' più invecchiati, con lo stesso tenore di vita che mediamente teniamo adesso, no? Chi vuole rinunciare a qualcosa o in prospettiva immaginare di dover rinunciare a qualcosa? Un esempio per fare una quantificazione. Ma allora guardi, in realtà è un percorso graduale, non si arriva immediatamente alla quantificazione di un progetto che è molto in là negli anni e quindi necessariamente difficile da identificare, magari è un po', come dire, non chiaro all'orizzonte. Allora, dall'analisi emergono due elementi molto importanti che sono stati segnalati. Il primo è di disporre di simulatori molto semplici, esperienziali, molto spesso anche, come dire, giocosi in alcuni casi, che aiutano a riflettere e a fare qualche simulazione di calcolo. La seconda cosa che emerge con molta chiarezza è la volontà e la richiesta di potersi confrontare con una relazione diretta con dei professionisti, con persone che aiutino a riflettere. Per fare però un esempio, sì, che lei mi chiedeva, in realtà, essendo a cuori e denari, mi viene in mente come quando si va in palestra, no? Allora, chi di noi dopo Natale non ha pensato di rimettersi in forma? Si è no, scritto... sa che c'è chi lo fa a maggio per rimettersi in forma per luglio, naturalmente pensando di perdere 5 kg così, come se niente fosse, perché c'è pure qualcuno che ci riesce. Sono i due momenti importanti, direi. Rimettersi in forma richiede allenamento, l'allenamento però come va fatto? Va fatto un passo alla volta, bisogna sostanzialmente cominciare a pensare alle cose che bisogna fare nel futuro. Poi però in realtà la cosa più importante quando ci si iscrive in palestra è cominciare ad andarci. Sì. Quindi il primo consiglio è di cominciare a parlare con qualcuno, il proprio consulente in banca o un proprio procuratore finanziario, che ci aiuti a ragionare. Per fare un esempio molto concreto, laddove una persona voglia avere una prospettiva da qui a 20 anni per potersi garantire, come dire, un reddito integrativo di 1000 euro al mese, senza fare nessun calcolo, anche solo pensare quanto sono 20 anni di 1000 euro al mese, sono 240.000 euro. è chiaro che questa è una cifra importantissima. Eh sì, quindi partendo anche solo da un primo step, semplicemente provando a quantificare, ripeto, senza fare calcoli finanziari, quelli che sono alcuni elementi di lungo periodo, si può cominciare a ragionare. E poi il mio suggerimento è sempre di parlare molto con i professionisti che ci aiutano a gestire al meglio. Ma direi che è già un buon passo in avanti a cominciare a discuterne in famiglia, anche di tutto questo, in una bella conversazione che metta insieme le esigenze in prospettiva dei genitori che invecchiano, dei figli che avranno esigenze nuove, avranno bisogno di mettere su a loro volta la propria famiglia, no Nicoletta, comprarsi una casa e naturalmente poi pensare a se stessi. Ancora un'ultima domanda, dottor Pennacchia, che poi lasciamo proprio per dare ulteriore concretezza a queste indicazioni che lei ci ha dato fino a questo momento. Segnaliamo che lo stanno facendo moltissime società, ognuna sta proprio veramente personalizzando questo servizio e voi state partendo proprio con un sito che si chiama Pronti Partenza Domani, è già partito perché volesse andare a curiosare, per avvicinare i risparmiatori alle tematiche della pianificazione di lungo termine, aiutandoli a comprendere e a superare le barriere psicologiche e comportamentali che li frenano da ragionare su orizzonti temporali lunghi. Abbiamo fatto con lei tantissime puntate su questo e ne rifaremo. Per esempio, uno strumento come questo come può aiutare? È un simulatore di futuro? Allora, Pronti Partenza Domani è un sito esperienziale, è pieno di curiosità, di esempi, non propone prodotti, non vuole proporre prodotti, ma soltanto degli spunti di riflessione. È per questo che infatti sono stata d'accordo molto volentieri nel presentarlo, semplicemente, quindi non ci sono proposte commerciali dietro così un po' a sorpresa. No. Sono spunti di riflessione che vogliono aiutarci a superare quelle barriere che rendono difficile proiettarsi nel futuro. Lo faremo come se fossimo i personal trainer dei nostri risparmiatori. È diventato un uomo cuore denari proprio. Ma adesso che ti infila dentro la dieta finanziaria, tu guarda, te la preannuncio già. Mamma mia. Abbiamo già una puntata pronta per una nuova puntata di Investire Informati. Sì. Allora, lasciando la curiosità sulla dieta finanziaria, siamo partiti con questo percorso a tappe. Sveliamo in questi giorni, l'abbiamo fatto ieri, la prima tappa, che sarà prendere la consapevolezza del lungo periodo e della lunghezza della nostra vita, di cosa dobbiamo fare nell'orizzonte molto lungo, ma ci saranno altre tappe che sveleremo ogni mese e mezzo, che riguarderanno alcuni nostri comportamenti che rendono più difficile proiettarsi nel futuro. Li cito molto rapidamente, lo farò dopo, che è un tipico atteggiamento che tende a procrastinare, a me non succederà, che è il positive bias, che normalmente ci porta a dire ok, ma non penso a quell'evenienza, anche io, che è quello che mi dice ok, faccio come gli altri, ma molto spesso questo effetto non è positivo, e infine tutto è subito. Il presentismo che molto spesso vediamo anche nelle nuove generazioni. Benissimo, io ringrazio molto Andrea Pennacchia, amministratore delegato e direttore generale di Ubi Pramerica SGR. Per chi volesse curiosare sulla vostra ricerca, il quaderno di ricerca, anzi gli italiani conoscono il loro io futuro, per capire un po' se possono sentirsi un po' coinvolti in questa platea che avete monitorato, dove possono trovarla? Su Pronti Partenza Domani c'è anche un bel video. Perfetto. Di sintesi che mostra l'evidenza della nostra ricerca. Benissimo, grazie molte, grazie, e buona giornata. Un saluto a tutti. Cuore e denari. Ehi, papà, stammi a sentire. Ti ricordi quella volta che siamo andati a pedalare con le biciclette stanche, con le mani sporche e vuote? Eravamo come fratelli, uguali come due ruote. Ti ricordi la domenica, ti portavi con te allo stadio, quella volta che... E a proposito di padri, il nostro paese in Europa è in cima alla classifica dell'età media del concepimento più alta. Parliamo di futuro, di progetti e parliamo anche di paternità. Oggi nell'appuntamento mensile di Salute Uomo parleremo infatti del desiderio di diventare padre, un'occasione per affrontare un grande tema che è quello della fertilità. Qui in studio abbiamo il professor Andrea Salonia, a cui noi abbiamo già deciso, e Deborah, di dare del tu. E quindi Andrea, quando tu hai iniziato a fare le domande ai nostri ascoltatori è saltata la luce. Il blackout. Ecco, non erano hard. Non erano hard, ecco, però... Ma sono secondo me molto molto molto caratteristiche del fatto che di fertilità al maschile, di desiderio di genitorialità al maschile, io mi scuso per la mia voce oggi un po' rauca. Erisimo, ecco, e spray di acido ialuronico, sì, ma questi medici... No. Echinacea, benissimo. Questi medici non si vogliono far curare comunque. No, esattamente. No, ma quello che dicevo è atipico il fatto che la trasmissione si sia interrotta, che la corrente sia andata via, proprio nel momento in cui si parlava di fertilità al maschile. Se ne parla troppo poco e, ce l'hanno dimostrato le ultime settimane, forse se ne parla male, a sproposito, in contesti molto difficili dal punto di vista sociale. Sono temi di grande rilevanza. Però è certo vero quello che fondamentalmente dicevi tu prima, Nicoletta: gli uomini italiani arrivano a richiedere di essere aiutati o cercano di avere un concepimento, quindi di esaudire il proprio desiderio di genitorialità, in età sempre più avanzata. Abbiamo pubblicato alcuni anni or sono una piccolissima ricerca: in meno di 10 anni l'età dell'uomo che si presenta all'attenzione di chi della genitorialità ha fatto il proprio mestiere, sempre più tardi, quasi verso i 40 anni. Allora, 800 24 00 24, chiamateci se state accarezzando l'idea di diventare padri, se state cercando di avere un bambino con la vostra compagna e questo bambino tarda ad arrivare, tutti i consigli per voi. Investire informati. E 800 24 00 24, anche per continuare ad intervenire sui temi del risparmio ancora per qualche minuto sul vostro io futuro dal punto di vista economico. Siamo sempre qui al Salone del Risparmio. Sono presenti peraltro qualche cifra, non l'abbiamo data in questi giorni, oltre 150 brand di espositori e operatori del settore che intervengono appunto con conferenze varie, vari momenti appunto di confronto sui temi del risparmio e anche del futuro. Allora, come avete avuto modo di sentire anche nelle osservazioni che ci hanno fatto alcuni ascoltatori, non solo in questi giorni ma anche in puntate precedenti dedicate al risparmio, con Investire Informati stiamo facendo un lungo percorso, molte persone preferiscono non affidarsi ad un consulente ma dedicarsi in piena autonomia ed indipendenza alla scelta diretta di fondi di investimento, dei prodotti, delle soluzioni di investimento sulle quali puntare magari sfruttando le opportunità offerte dalle moderne piattaforme. Allora, molto spesso ci dicono: non avete mai il coraggio di parlarne, non parlate mai degli ETF ma solo dei fondi di investimento e quindi di prodotti che hanno una gestione attiva, eccetera. Noi invece non censuriamo assolutamente nulla e nessuno, per cui siamo ben felici di aver invitato qui in questo spazio per qualche minuto Federico Taddei, amministratore delegato di Online Sim. Benvenuto. Buongiorno. È una piattaforma appunto di intermediazione di fondi di investimento, ma non solo, poi faremo un po' un elenco tra virgolette della spesa su tutti i prodotti e le soluzioni che sono disponibili appunto su questa piattaforma, indipendente, nata addirittura nel 2000. Siamo nati nel 2000, siamo la piattaforma di, diciamo, collocamento di fondi online più vecchia che c'è in Italia, e nel 2015 siamo ancora pieni di energie con un sacco di progetti e pensiamo di poter continuare a fare bene. Allora, voi praticamente riuscite a proporre attraverso la vostra piattaforma qualcosa come 4.000 fondi comuni di investimento, SICAV di oltre 130 case di investimento, oltre che piani di accumulo, fondi pensione, prodotti assicurativi, per cui ecco, fare delle scelte oculate per la gestione del proprio risparmio utilizzando anche queste piattaforme moderne è assolutamente possibile. C'è poi da cercare di capire come fa un piccolo risparmiatore ad orientarsi in un'offerta così vasta. Esatto, questo è un po' il tema chiave, nel senso che quando noi siamo partiti nel 2000 eravamo sostanzialmente un grande supermercato dove il cliente, l'investitore, poteva trovare tanti strumenti con i quali investire i propri denari. Gradualmente siamo evoluti invece verso un approccio più guidato, come giustamente hai detto tu prima, per i clienti che sono autonomi, però per i clienti che cercano anche un supporto. Questo supporto viene dato attraverso tanti strumenti. C'è un tema molto recente, molto di attualità, di cui si parla anche nei mercati anglosassoni, che è quello del robot advisory, quindi dalla consulenza robotica, diciamo automatica, fatta con strumenti web. Noi siamo all'avanguardia in questo, è ormai un anno che stiamo puntando molto su questo tipo di servizio, continuiamo a rafforzarlo e continueremo a rafforzarlo. Ubi per America, di cui abbiamo parlato prima, invece il coach finanziario sostanzialmente con la loro nuova piattaforma, però si sono un po' figure di accompagnamento, perché non è proprio neanche il caso di andare, come dire, alla sprovvista, no? su queste piattaforme. Esattamente, questo è il grosso vantaggio che dà internet, come lo dà anche su tanti altri diciamo ambiti, no? Quindi se io voglio decidere un albergo dove andare in vacanza, posso andare in agenzia a farmi consigliare da loro. solo oppure andare su internet, dove faccio in autonomia ma non da solo, perché ho TripAdvisor, ho tanti siti che mi consigliano quelli che sono gli alberghi migliori, quelle che sono le offerte migliori, quindi posso in autonomia ma supportato prendere delle decisioni consapevoli. Lo stesso per i fondi. Gli occhi di Nicoletta a luccicare per qualche domanda, perché è curiosa. Io avevo intercettato anche Andrea Salogna, che era molto interessato al tema, e quindi però volevo chiedere qual è il profilo, l'identikit del vostro cliente, si può definire così, e poi abbiamo anche una domanda di Andrea. Direi che è molto in linea con quello che diceva il professore prima, nel senso che tipicamente il nostro investitore è per 4/5 maschio e per 3/4, quindi per il 75%, è dai 40 ai 60 anni. La cosa particolare è che ovviamente per fare investimenti su internet bisogna avere soldi per investire, cultura finanziaria e prossimità con lo strumento internet. Anche se a noi non piace definirlo investitore fai da te, diciamo che è quello un pochino più preparato, emancipato, che vuole questa autonomia, indipendenza, che poi in realtà non è detto che non abbia neanche assolutamente una consulenza finanziaria accanto, magari una porzione del proprio investimento la gestisci in autonomia ma con accanto una figura professionale. Corretto. Tornando al profilo, è un cliente che oltre a queste caratteristiche diciamo sociodemografiche, poi in realtà è un cliente che usa molto gli strumenti di e-commerce, appunto Amazon, eBay, TripAdvisor, eccetera, usa molto l'informativa finanziaria generalista, si documenta quindi con siti come Morningstar, quello del Sole 24 Ore, l'Ansa, il Corriere, quindi è un cliente, un investitore tipicamente molto informato e che ricerca l'informazione. C'è una Io volevo semplicemente dire che quanto il dottor Taddei sta dicendo è estremamente applicabile al mondo della medicina, soprattutto considerando che negli ultimi 10 anni, almeno 10 anni, la medicina è cambiata nel rapporto con il medico, perché è passata attraverso il web, e purtroppo l'idea che esistano molti tentativi di diventare papà fai da te passano esattamente attraverso siti non corretti, dove la fruizione delle informazioni è purtroppo molto spesso priva di qualunque tipo di filtro e di capacità interpretative, per cui da parte di questi potenziali genitori. Il passaggio dall'essere informati in termini economici all'essere informati in termini di salute è veramente molto delicato. Rubo un minutino al traffico per prendere la domanda di Giuseppe da Reggio Emilia, a cui chiedo di essere molto rapido. Lo saluto, Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, grazie. Volevo sapere, per quanto riguarda il trading online di alcuni strumenti finanziari, l'aspetto cartaceo, cioè le eventuali firme in traccia di un documento di possesso, cioè com'è l'aspetto, diciamo, di tipo legale? Certo, allora Giuseppe, peraltro una piattaforma di questo tipo consente anche il trading online, perché forse possiamo e dobbiamo fare delle distinzioni, perché il trading online puro è qualcosa di diverso magari rispetto al servizio che offre online SIM. La nostra piattaforma allo stato attuale è focalizzata su strumenti di risparmio gestito, quindi su fondi, come hai detto tu prima, su piani di accumulo, su polizze assicurative. Lo scopo è quello di andare su strumenti che consentono una diversificazione e quindi consentono di, in termini tecnici un po' da gestori, di diminuire il livello di rischio e il profilo di rischio dell'investimento. La domanda dell'ascoltatore però ha una sua risposta, che vale sia per il trading online che per l'attività che fa anche online SIM. Tipicamente quello che viene fatto è un contratto cartaceo all'apertura, anche se la normativa da ormai un anno consente anche l'apertura di contratti, primi contratti dematerializzati con la firma digitale, ma tutte le piattaforme invece per i singoli ordini non richiedono più la firma cartacea, ma un'operatività completamente anche internet. Se poi naturalmente ci sarà un account che renderà tracciabili un po' tutte le operazioni che si sono fatte, quindi magari uno poi una stampata, se proprio la vuole in qualche maniera, l'informativa è sempre disponibile e può farla legalmente. Benissimo. C'è un sistema di usuario di password. Allora le chiedo di rimanere ancora un minutino con noi, sentiamo il traffico, perché volevo solo chiarire un ultimo aspetto che è molto caro agli ascoltatori: come mai queste piattaforme sono così convenienti, nel senso che chiaramente se uno fa una sottoscrizione di un fondo di investimento con un promotore finanziario, chiaramente ci sono commissioni di retrocessione, perché questa figura va remunerata e quindi viene caricata sul risparmiatore. Qua è tutto più conveniente, e quindi il tema è: ma una piattaforma online dove ci guadagna? Ora un paio di domande prima di salutarla. Federico Taddè, amministratore delegato di Online Sim. Allora, volevamo solo chiarirci la questione del vantaggio economico di fruire di una piattaforma online per sottoscrivere un fondo di investimento, un fondo pensione, rispetto ad un canale tradizionale di sottoscrizione. Siete molto convenienti, io domani mattina voglio fare un pack con voi, quanto mi costa? Aprire il conto da noi, un conto fondo, un conto di investimento, non costa nulla. Fare poi il pack prevede dei costi molto limitati per la singola operazione, tipo di un euro, e poi la semplice sottoscrizione dei fondi. Parliamo del sottoscrittore, ma voi che cosa ci guadagnate? Si potrebbe chiedere appunto un ascoltatore, se lo chiedono già. Certo, ovviamente il tema delle piattaforme di internet è simile a ogni altro servizio venduto attraverso internet, quindi un canale di vendita estremamente conveniente in termini di costi bassi e quindi possibilità di caricare minori costi anche alla clientela. Le piattaforme tipicamente usano classi di fondi che sono particolarmente convenienti rispetto a quelle che sono venduti da altri modelli di servizio, il promotore finanziario o la filiale, scontano per intero le commissioni d'ingresso e a volte fanno anche delle promozioni. Noi siamo attualmente live con una promozione per la quale rimborsiamo il bollo, il famoso bollo Monti, per gli investimenti. Questa simpatica sorpresa che ci è arrivata un paio d'anni fa, che ormai è una costante di cui bisogna tenere conto quando si fanno le investimenti. Sì. Esatto. Quindi nella sostanza tutti questi costi riescono a essere abbattuti al massimo, contenuti e semplificati, proprio perché la modalità internet non prevede di dover remunerare uno sportello fisico delle persone, certo, che vanno sul territorio e che devono impegnarsi. Ottimo, grazie Federico Taddei, amministratore delegato di Online Sim. Lei c'era già dal 2000? No, io sono arrivato 7 anni fa. Perché sennò avrei detto lei era un po' il papà anche di Online Sim, visto che adesso parliamo. Lui rientra, il dottore rientra assolutamente nel profilo. Nel nostro profilo dell'uomo a cui noi ci rivolgiamo, quindi se vuole fermarsi noi siamo molto felici. Grazie.